Per l'uomo del ventunesimo secolo, udire che un suo simile ha versato il proprio sangue per redimerlo dai peccati è un fastidio alla sua coscienza, perché in qualche modo si sente non solo responsabile ma anche colpevole. Essendone cosciente, quindi, l'oratore tende ad annunciare che Gesù è venuto per aiutarti a risolvere i tuoi problemi, per farti essere felice. Poiché tutti hanno più o meno desiderio di essere più felici e sono ben contenti che qualcuno li aiuti a risolvere i propri problemi, ecco allora che in questo modo il messaggio predicato diventa più accettabile se non piacevole. Ma lo scopo del cristiano non è rendere più accettabile il messaggio di Gesù che muore causa nostra, bensì quello di portare il peccatore a prendere coscienza che è incamminato all'inferno, e solo con un atto di fede salvifica in Cristo può evitare la giusta perdizione eterna. Sono forse riflessioni anacronistiche, ma un evento storico non può essere modellato al piacimento degli ascoltatori, bensì deve rispecchiare fedelmente i fatti. Diversamente la verità si trasforma in menzogna. Se Gesù è morto per tutti, significa che tutti hanno bisogno di essere redenti tramite Cristo, tanto tutte le persone per bene quanto le appartenenti alle altre religioni. Se questo non è vero, allora il Vangelo di Cristo è falso. Purtroppo noi viviamo come se fossimo in linea di produzione e sembriamo più preoccupati della quantità di nuovi credenti uscenti dalla linea piuttosto che dalla qualità della produzione stessa. Ma la crescita non è l'unica garanzia di qualità. Anche i morti nel cimitero aumentano, ma non per questo lì vi è vita. Ragioniamo in termini di marketing: le campagne di evangelizzazione diventano delle campagne pubblicitarie utili a rendere più attraente il prodotto proposto. Per questo ci si guarda bene dall'offendere l'uditorio annunciando loro che sono incamminati nella via della perdizione, o che sono figli di Satana. Nel tentativo di vedere i locali più pieni, il linguaggio dei credenti si è adattato alle esigenze dell'uditorio. Così oggi, pregni di spirito ecumenico, predichiamo che alla fine tutti abbiamo lo stesso Dio. Studiando i bisogni dell'uomo medio, gli si può offrire un Vangelo su misura che soddisfi tali bisogni mediante l'annuncio che Dio è buono e vuole la gioia e la prosperità di tutti. Questo è esattamente ciò che si fa quando si vuole vendere un prodotto, tacendone le cose negative, come il grande costo, per mantenerlo funzionante. Si esaltano le qualità del prodotto, nascondendo i lati negativi. Così si fa riguardo a Dio. Oggi prevale un messaggio evangelico basato sull'amore e sul perdono di Dio, ma senza evidenziarne l'ira e il suo odio per il peccato e il peccatore che lo compie. Si cerca di dare alle persone ciò che vogliono, o comunque si fa loro credere che riceveranno ciò che vogliono. Così basta chiedere in preghiera, e un Dio misericordioso non rifiuta nulla a coloro che lo invocano. Si insegna che basta aver fede e tutti i familiari diventeranno figli di Dio, così come si insegna che la fede è in grado di guarire i malati e togliere ogni ostacolo nella vita. Così chi predica l'Evangelo è preoccupato di addolcire la pillola ai suoi ascoltatori per conquistarli a Cristo, mentre Gesù non ha mai illuso nessuno con parole lusinghiere. Anzi, Gesù ha sempre parlato di sofferenza a chi lo vuole seguire, e uno dei tanti discorsi tenuti in merito è rivolto ai suoi discepoli. Io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o poderi per amor mio e dell'Evangelo, che non riceva il centuplo ora, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madre, figli e poderi, insieme a persecuzioni e, nel secolo a venire, la vita eterna. Mt. 19.29.30. Dunque, promesse meravigliose per chi segue Cristo, ma anche promesse di sofferenze le quali puntualmente si realizzano per chi vuole vivere piamente. La sfida più grande, l'ambizione più alta, la motivazione più santa e lo scopo più nobile nella vita di un credente è proclamare sempre Gesù Cristo. Si fanno interminabili discussioni sull'esistenza, o meno, di Dio, si vagliano quali siano le prove di tale esistenza, si mettono a confronto le dottrine più giuste di ogni religione, ma questo è un deviare il discorso religioso se la persona di Gesù non è messa al centro di ogni ragionamento. Sono importanti, anzi importantissime, le questioni miranti a individuare chi sia l'autorità dei cristiani, qual è il valore delle immagini sacre, della tradizione, del purgatorio, del culto dei morti, delle messe per i morti, dell'Eucaristia, della confessione fatta a sacerdote, della Madonna e del Papato. Ma se tutte queste questioni non sono viste nell'ottica di voler mettere Cristo Gesù come punto finale, si rimane in un terreno neutro di religiosismo sterile e dannoso. Anche mettere a fuoco l'irripetibile sacrificio di Gesù, il sacerdozio non trasmissibile di Cristo e il sacerdozio universale di tutti i credenti è cosa buona, ma se queste verità servono solo a dire cosa l'uomo deve fare, mettiamo dei pesi religiosi che conducono le persone diritte al luogo di perdizione. Predicare Gesù Cristo vuol dire annunciarne l'opera e il suo valore spirituale più delle sue parole da lui espresse, perché la sua morte ha un'importanza eterna. Se Gesù è morto per i peccati dell'umanità, per riconciliare l'uomo perduto e peccatore a Dio, di conseguenza predicare Gesù Cristo significa annunciare che il problema del peccato è stato risolto una volta per sempre, che l'uomo non ha più nulla da fare per ottenere il perdono di Dio, che la vita cristiana non è altro che vivere nella dimensione di perdonato, che l'espressione del culto reso a Dio è una vita di lode e di ringraziamento. Se questo fosse il messaggio di coloro che pensano di predicare il puro Evangelo, vi sarebbero meno religioni che cercano di appropriarsi la divinità mediante riti e sacrifici. E non vi sarebbe nessun cattolico o religioso che, appesantito dai propri peccati, cerchi di acquistare la salvezza per mezzo delle proprie opere. Ma il valore di una predicazione basata su Gesù Cristo non si limita all'aspetto religioso, perché esso ha una valenza mondiale. Se Gesù con la sua opera purifica la coscienza da ogni peso e desiderio di vendetta, allora dal mondo si potrebbero togliere tutte le più disperate azioni di vendetta, come il terrorismo, la famiglia vivrebbe nella più ampia serenità e la società realizzerebbe quell'armonia e pace tanto desiderata da tutti. Questo avverrà quando Gesù Cristo tornerà sulla terra per regnare, ma intanto, nell'attesa del suo ritorno, non rimane ai cristiani di proclamare Gesù Cristo quale unica soluzione spirituale, morale e sociale. Non vi è altra alternativa. Aprile 2008, Ellero,